Mix 24, i gialli della storia. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi, Frédéric Chopin. Forse il più grande artista polacco, il poeta del pianoforte, e la storia del legame con la sua terra, con i protagonisti di quei fermenti di libertà da cui nasce il Risorgimento europeo. Ad aiutarci in questo racconto il musicologo Piero Rattalino, il critico musicale Giorgio Pestelli e la storica Claudia Colombati. La musica di Chopin va a toccare qualcosa dell'animo nostro che è eterno, che è continuo, che c'è oggi, c'era ieri, c'è oggi, ci sarà domani di nuovo, che quindi continuerà, ecco, a parlare a tutte le generazioni. Ha ricevuto molti aiuti da varie persone, indipendentemente dalle nazionalità. Questo quasi anticipo di questa grande, bella Europa che ci siamo sognati. Tutti. Nella seconda metà dell'Ottocento le colonne del repertorio concertistico sono Beethoven e Chopin. Nella musica di Chopin è come se ci fossero i cannoni nascosti sotto i fiori. Chopin e la musica, un binomio che diventa vita e passione. Esule a Parigi, il giovane Chopin vive una stagione magica in cui l'arte si fonde con la libertà. I movimenti nazionalistici e liberali repressi nel 1821 dai governi autoritari della Restaurazione riemergono 10 anni dopo. E la Francia è al centro di questi fermenti. È il 1831, l'anno dei moti rivoluzionari che infiammano le speranze e creano il sogno di un'Europa senza più oppressori. A Parigi il mito romantico dell'identificazione tra l'arte e la vita viene incarnato da un gruppo di artisti straordinari, musicisti come Mendelssohn, Berlioz e Liszt, pittori come Delacroix, scrittori e poeti come Heine e Balzac. Parigi, 12 dicembre 1831. Il vento mi ha spinto qui. Si respira dolcemente, ma forse anche si sospira di più. Mio carissimo, Parigi è tutto ciò che vuoi. Puoi divertirti, annoiarti, ridere, piangere, fare tutto ciò che ti piace e nessuno si accorgerà di te. Perché qui ci sono migliaia di persone che fanno le stesse cose. Non so dove ci siano più pianisti che a Parigi. Non so dove ci siano più asini e più virtuosi che qui. Mendelssohn, Chopin e Schumann e anche Liszt non sono figli di musicisti. Per la prima volta dopo secoli e secoli non sono figli di musicisti e non sono nemmeno ragazzi molto dotati ma di famiglie poverissime che vengono fatti studiare da mecenati vari. Questi sono ragazzi della borghesia. Chopin era figlio di un professore di liceo, è professore di francese nel liceo di Varsavia, che vengono fatti studiare. E quindi partono in modo diverso dal passato e hanno una indipendenza culturale, un'indipendenza intellettuale maggiore perché sono portatori di una classe, appartengono ad una classe, la borghesia o la piccola borghesia, che ha dei valori. Mentre invece i musicisti del passato erano artigiani e dovevano adottare i valori della classe che dava loro mezzi di sostentamento. Quindi c'è un modo diverso di rapportarsi nei confronti della realtà. Parigi, 14 dicembre 1831. Egregio signor Elsner, la sua lettera è stata per me una riprova dell'interesse paterno che lei ha voluto riservare al più affezionato dei suoi allievi. Per essere un grande compositore occorre un'enorme esperienza che, come lei mi ha insegnato, non si acquista solo ascoltando le opere altrui, ma più ancora le proprie. Oggi, avendo del tutto perduto questa speranza, sono costretto ad aprirmi una strada nel mondo come pianista. Resto fino alla morte il suo affezionato allievo, Frédéric François Chopin. Non è l'artistone, l'artista che va in giro con il vestito, che già si veste in un modo che è un segnale, che è un artista. Chopin era elegante ma discreto, ecco, non so, Liszt per esempio aveva, lo si vedeva subito che era un artista, capelli lunghi, la zazzera, il modo di fare. Proprio anche il modo di vestirsi, così. In Chopin aveva questi tratti del borghese medio, nel senso che aveva questo senso della moderatezza, dei limiti. Parigi, 25 dicembre 1831. Mio carissimo, ora qui c'è una gran povertà. Gira poco denaro, incontri un mucchio di gente scalcinata. Non hai idea di che effetto mi abbiano fatto queste voci minacciose di un popolo scontento. Un numero enorme non solo di giovani, ma di gente di ogni provenienza si precipita come una valanga. Molti restano feriti. C'è sgomento. Il mio concerto è stato rimandato. Parigi diventa un rifugio privilegiato per tanti giovani polacchi, figli di una nazione martire. La Polonia, infatti, uno stato satellite della potenza russa, da anni lotta per l'indipendenza. Ma ancora una volta l'esito dei movimenti di resistenza contro l'invasore russo, lo zar Nicola I, è tragico. Nella capitale francese i cavalieri della libertà, esuli per lo più aristocratici, trovano una generosa ospitalità e Chopin, timido, è profondamente legato alla sua terra, diventa il talento prodigio dei salotti parigini. Ma chi è questo ragazzo fragile che rivoluzionerà la musica dell'Ottocento? Ha creato un linguaggio sul canto popolare, quindi non è come inserire in un linguaggio tradizionale dei neologismi, questo sarebbe il citare direttamente, è invece proprio il creare un nuovo linguaggio basato su elementi linguistici che non erano noti alla tradizione della musica occidentale. E a Varsavia aveva una cultura provinciale di tipo austro-tedesco, ma che era al di fuori, era tagliata fuori dei grandi circuiti internazionali. Quindi Chopin pensava di poter diventare un pianista compositore, affermandosi come tale, cioè eseguendo i suoi lavori, scendere in Italia, studiare l'opera italiana a Milano, rientrare in Polonia e creare l'opera nazionale polacca. Questo era ciò che la sua cultura gli chiedeva. Trovandosi così completamente spaesato e respinto anche a Vienna, è cambiato completamente. Vienna, 26 dicembre 1830. Oggi sono qui seduto in vestaglia da solo. Come fare per partire? I genitori mi scrivono di fare ciò che voglio, ma io non lo desidero. Andare a Parigi, tornare, restare, uccidermi? Suono, piango, leggo, guardo, rido, vado a dormire, spengo la candela e sogno sempre di voi. Un ragazzo inquieto che sogna la famiglia e dipende totalmente dal denaro del padre. Come dice un pianista dell'epoca, Frédéric è proprietario soltanto delle sue magiche 10 dita. In linea con lo spirito del tempo, il giovane Chopin si muove tra Vienna e Varsavia finché alla fine approda a Parigi, e Parigi diventerà la sua città, il luogo della sua maturità artistica. Eppure lo straordinario compositore non dimenticherà mai la sua terra antica, nobile e oppressa, anche se per lui la lotta per la libertà resterà sempre un rimpianto lontano. Parigi accettava di buon grado e aiutava anche da un punto di vista politico e di permanenza l'emigrazione polacca. e era proprio una strategia politica dell'epoca. Chiaramente Chopin si trovò benissimo a Parigi perché ritrovò gli amici di un tempo, no? Ritrovò quindi la famiglia Wojcinski, ritrovò la famiglia, cioè, i Czartoryski, che sono stati, tra l'altro la Marcellina Czartoryski, oltre ad essere stata vicino a lui fino alla morte e ad averlo sostenuto, è stata anche forse una delle sue migliori allieve, era una splendida pianista. E quindi Chopin si trovò a casa sua con l'emigrazione. Parigi, metà gennaio 1833. Caro Domus, sono entrato nella migliore società. Sto fra ambasciatori, principi, ministri, e non so neppure per quale miracolo, perché non ho fatto niente per ottenerlo. Dagli artisti ho amicizia e stima. Oggi devo fare 5 lezioni. Penserai che mi sto facendo una ricchezza, ma il calesse costa di più e anche i guanti bianchi, senza i quali non si ha bon ton. Frédéric Chopin non diventerà mai ricco, e questo nonostante in tutti i salotti di Parigi cresca sempre di più la fama di un giovane affascinante che è anche un grande pianista e un geniale compositore. Il pianoforte, strumento prediletto dalla borghesia francese, diventa infatti il più amato degli strumenti musicali, protagonista prima dei salotti e poi delle esecuzioni in pubblico. E il giovane polacco, dal talento sorprendente, diventa il più richiesto e il più amato. Chopin guadagnava più o meno 30.000 franchi oro all'anno. E quando faceva un concerto a Parigi, molto raramente, ne guadagnava 6.000 con un solo concerto. Quindi se avesse fatto 5 concerti all'anno, teoricamente, non soltanto a Parigi, ma avrebbe guadagnato quanto guadagnava facendo l'insegnante di pianoforte e lavorando anche 8 ore al giorno. Però proprio il suo ambiente non era quello del concerto. Perché? Ma gli mancava l'esibizionismo. Quasi un'icona di un'Europa divorata dal romanticismo, l'amore di Chopin e George Sand travolge due artisti raffinati ma diversissimi tra loro. Lei, forte, estroversa, anticonvenzionale, una vita scandalosa segnata da relazioni importanti come quella con Mérimée e de Musset. Noa, 17 febbraio 1837. Buongiorno, buon Franz. Venite a trovarmi il prima possibile. Dite a Chopin che lo prego e lo supplico di accompagnarvi, che io lo adoro. George Sand è lo pseudonimo di Amandine Aurore Lucille Dupin, che è stata una grande scrittrice francese dell'Ottocento, autrice di moltissimi romanzi, novelle, scritti politici e opere per il teatro, ma è stata soprattutto una donna molto moderna per l'epoca, intelligente, colta e coraggiosa, che decise di rompere con i legami familiari e nel 1830 andò a Parigi con la speranza, diciamo, di diventare scrittrice. Chopin si rendeva conto che George Sand era una romanziera di sinistra, una romanziera sociale che descriveva la condizione delle donne, per esempio, quindi non era facilmente accetta nel mondo aristocratico che invece dava a Chopin i mezzi di sostentamento. Quindi mettersi con la Sand voleva dire correre un pericolo. Naturalmente la differenza dell'impostazione culturale, della formazione, del paese, del modo di vivere così libero della Sand, quando Chopin la incontra, era una donna chiacchierata a Parigi allora, e naturalmente creano una divergenza apparente di ideali. Però è indubbio che la Sand cercava nella musica di Chopin quell'elemento sublime del genio che lei sottoscrive in molti scritti parlando della musica di Chopin. Lui fragile, ombroso, il fisico già minato da un male misterioso che sembra uscito da un romanzo dell'epoca, e poi la speranza che l'amore, il sole delle Baleari, compiano il miracolo. Palma, 15 novembre 1838. Mio caro, sono a Palma, tra le palme, i cedri, gli aranci. Il cielo è di turchese. Qui tutto, anche la città, ricorda l'Africa. Sono vicino a ciò che vi è di più bello. Sono un uomo migliore. Giorgio doveva curarmi da sola. La vedevo rifarmi il letto, riordinare la stanza, privarsi di ogni cosa per me. Aggiungi inoltre che sta scrivendo Il genio di Chopin appare come il più profondo e ricco di sentimenti e di emozioni che sia mai esistito. Egli fa parlare ad un solo strumento il linguaggio dell'infinito. La sua creazione era spontanea, miracolosa. La trovava senza cercarla, senza prevederla. Nasceva sul piano improvvisa, completa, oppure gli cantava nella mente durante una passeggiata. Egli era un artista fino in fondo all'anima, che non vi sarebbe mai stato modo di fargli accettare la realtà, che il suo sogno costante era troppo lontano dal mondo. Perché le sue opere diventino popolari sono necessari dei grandi progressi nel gusto e nell'intelligenza. La sua musica è piena di sfumature e imprevisto, qualche volta è bizzarra, misteriosa, tormentata. Chopin stette molto male, gli fu diagnosticato dai medici spagnoli, fu diagnosticata a Chopin la tubercolosi e malgrado loro, la coppia, entrambi non credettero a questa diagnosi, Chopin stava molto male e lei dovette curarlo e lo fece con grande amore e in mezzo anche a tante difficoltà perché gli abitanti dell'isola erano spaventati dal malato, diciamo, di tisi e perché assolutamente inospitali nei loro confronti e poco disponibili perché la coppia era abbastanza irregolare. Prima la Spagna, poi la residenza di campagna di George Sand. La salute malferma di Chopin non migliora. La Sand si trasforma da amante in una madre sollecita e generosa. Così l'artista, sempre più debole e malato, può comporre alcuni dei suoi capolavori, i preludi, i notturni e le ballate. Poi arriva l'anno cattivo, come il musicista definisce il 1847, e il legame con la Sand si chiude bruscamente. La tisi devastante e incurabile consuma il corpo di Chopin. Ma se la solitudine sembra essere l'unico destino dell'artista, George Sand è protagonista di una nuova stagione di lotta politica. Fonda due periodici di chiaro orientamento socialista e i suoi romanzi sono apprezzati da Karl Marx. E così, quando proletariato e borghesia si uniscono contro l'ordine costituito, la Sand viene invitata a fare parte della Comune di Parigi. È il 1848. Ai membri del Comitato Centrale di Parigi, non vengo per ringraziarvi di aver messo il mio nome su una quarantina di liste del Comitato Centrale. Le donne dovranno un giorno partecipare alla vita politica? Sì, un giorno. Lo credo insieme a voi. Ma quel giorno è vicino? No. Non lo credo. I moti del 1848 però lo vedono fuggire in Inghilterra. A parte che a Parigi c'era anche il colera, scappa a Londra perché sono la sua allieva, la Stirling, sua poi grandissima benefattrice, innamoratissima di lui indubbiamente, che gli suggerisce, gli amici lo portano ad andare in Inghilterra. In Inghilterra però si trova malissimo, lui odia l'Inghilterra, la lingua inglese, non la sopporta, non sopporta lo spleen inglese, no? E soprattutto poi si acuisce la sua malattia. Di Londra infatti era rimasto impressionato dalla vivacità della metropoli moderna, dove tutti pensano solo a muoversi, a commerciare, a trafficare, dove l'importanza del denaro è, insomma, la prima cosa, e quindi la musica era considerata soprattutto un luogo di intrattenimento. C'è una lettera amara proprio, di quelle secondo me profondamente disperate, tragiche di Chopin, anche se non con accenti ma sempre col suo riservo, dove lui scrive: non suono più, non compongo più, non mi ricordo neppure più come si canta nel mio paese. E poi dice: ma la mia arte dov'è finita? E il mio cuore dove l'ho sprecato? Ricordo appena come si canta nel mio paese. Il mondo non so come mi scivola via. Io mi lascio andare, non ho più forze. Se mi sollevo un poco, subito ricado più in basso. Thank you. dentro di sé aveva degli abissi chiaramente di profondità e anche di demonismo che vengono fuori in certe sue opere, penso soprattutto agli scherzi, che si chiamano scherzi in modo quasi ironico, ma in realtà sono sempre degli scherzi e sono tra le sue cose più demoniache, più stravolgenti, ecco, della sua, sono i suoi aspetti di romanticismo più tormentato. Il tormento della creazione, la solitudine della malattia. Lontano dalla Sanda e dall'amico Liszt, Chopin torna alle sue radici e agli affetti familiari, compone una musica disperata e chiede aiuto. Chaillot, 25 giugno 1849. Miei cari, se potete venite. Sono malato e nessun dottore mi può aiutare quanto voi. Se vi mancano i denari, prendetene a prestito. Quando sarò meglio, guadagnerò facilmente e li renderò a chi ve li ha prestati. Forse Dio permetterà che tutto vada bene, e se così non sarà, fate come se lo fosse. Il vostro fratello affezionato ma debole. Frédéric Chopin muore a Parigi all'età di 39 anni il 17 ottobre del 49. Nel 1879 il suo cuore viene portato a Varsavia nella chiesa di San